La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Prima di annunciarvi l'argomento della puntata, breve resumé della faccenda che ha alimentato la giornata, perché ci siamo svegliati stamattina con ancora la notizia, purtroppo risalente a ieri, della morte di 2 dei 4 ostaggi in Libia, e poi praticamente nello stesso minuto in cui io e Alessandro Milan finivamo la trasmissione Attenti a noi due alle 9 stamattina, sono uscite, per fortuna, le prime indiscrezioni. È stato Domenico Quirico della Stampa il primo sulle indiscrezioni della salvezza invece degli altri 2 ostaggi italiani che erano lì dall'estate dell'anno scorso. Per fortuna, viva viva. Io vi invito solo, se non l'avete ancora letto, su questa storia della Libia, sulla quale io ho delle riserve, su questo decreto legge post Bataclan che ha dato poteri al Presidente del Consiglio che non hanno suscitato alcun dibattito né in Parlamento né sui giornali. Io ho delle riserve perché mi sembra che devo dirvi che è stata modificata la procedura di attribuzione dei poteri in materia su come si entra in una guerra simmetrica, cioè con agenti segreti, ma con agenti segreti questi è ovvio che debbano dipendere dal Presidente del Consiglio. Noi abbiamo improvvisamente per decreto esteso la loro qualifica a tutte le risorse militari della difesa che fossero necessarie per una campagna militare vera. E allora vi invito, se non l'avete fatto, e concludo qui questa breve digressione prima di andare all'argomento della giornata, a leggere l'ufficialissima intervista dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Phillips, resa al Corriere della Sera, quindi il giornale più ufficiale d'Italia, e aggiungo, resa attraverso l'ex portavoce del presidente Napolitano, Caprara. Quindi più ufficiale di così non può essere. La versione ufficiale che viene quindi resa nota agli italiani è che gli Stati Uniti, a seguito dei colloqui riservati reiterati con il vertice del nostro paese, si aspetta 5.000 uomini, non gli uomini dell'AISE e dei servizi, 5.000 uomini, ed è identificata con precisione anche l'area Tripoli e l'area occidentale del paese, cioè quella dove sono i nostri impianti dell'ENI, e si aspettano che noi lo facciamo perché a questo ci siamo candidati e su questo abbiamo dato garanzie. Questa è la voce ufficiale degli Stati Uniti. Se leggete questa intervista, chiusa ora di questo inizio di trasmissione, ne sapete più voi di quanto non ne sappia il Parlamento italiano, che in termini ufficiali non ha mai avuto alcuna comunicazione di questo genere. E anzi, nei giornali trovate le fonti di Palazzo Chigi che hanno fatto scrivere a tutti, e tutti ne hanno dovuto prendere atto, che in realtà il governo adesso tenta di frenare. Però gli Stati Uniti dicono, voi questo impegno ci risulta che lo abbiate preso. Chiusa parentesi, non ci occupiamo di questo, ma attenzione che questa vicenda nei prossimi giorni inevitabilmente avrà sviluppi. Invece oggi facciamo una riflessione di fondo su un tema su cui nelle mie trasmissioni, sia alla versione di Oscar sia quella di sabato, e vi do appuntamento a questo proposito domani mattina come tutti i sabati in diretta dalle 10 alle 12, Conti della Belva, con me Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Spesso ci sentite parlare di sharing economy. Noi siamo un po' minoranza, siamo convinti che nel nostro paese sulla sharing economy ci sia un ritardo strutturale, una resistenza molto forte dei vecchi servizi di distribuzione, soprattutto di servizi sia pubblici ma soprattutto anche privati. Questo avviene nei trasporti, nel turismo, eccetera eccetera, che in questi anni non ha trovato una soluzione politica capace di vedere la trasformazione in atto, che è una trasformazione del modo di partecipare al mercato. Allora, la novità è che c'è alla Camera dei Deputati una proposta di legge che viene dal lavoro convergente dei parlamentari che appartengono all'intergruppo Innovazione. Allora, parliamo di questa proposta per capire se è un passo avanti, è una buona cosa, cosa c'è scritto, che tempi può avere di approvazione. E con noi Antonio Palmieri, che è deputato alla Commissione Cultura e responsabile Internet di Forza Italia e che ha un'esperienza pluridecennale nella comunicazione, e visto che la sharing economy viaggia, nasce, si sviluppa con il digitale, bisogna essere esperto di comunicazione. Grazie di essere con noi, Antonio Palmieri. Grazie Oscar, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E Massimo Sideri, che è qui in studio con noi, giornalista del Corriere, che torna spesso su questi temi con osservazioni che io trovo puntute e autorevoli, insomma, che condivido quasi sempre. Grazie Massimo. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Antonio Palmieri, ci dici come nasce questa cosa e ce la sintetizzi in 2 o 3 minuti i 12 articoli? Qual è lo spirito e che cosa propone concretamente? Allora, nasce da un lavoro durato più di un anno, iniziato l'11 settembre 2014, noi abbiamo fatto... Cacchio, è nato l'11 settembre, è cominciato il lavoro? Perché siamo sprezzanti del pericolo. Va bene. Abbiamo fatto quindi un lavoro iniziato quel giorno con un momento di riflessione alla Camera, ne abbiamo fatti poi altri alla Camera e altri andando fisicamente nel paese a incontrare persone che studiano e si occupano di sharing economy e quelli che la fanno, specie gli italiani. E lo nostro obiettivo è molto semplice, quello di dare delle regole minime di base che assicurino trasparenza all'operato delle piattaforme, trasparenza e tutele per chi lavora attraverso queste piattaforme, e tutto questo deriva poi per il cliente, per i clienti finali, si trasforma in un servizio migliore a nostro giudizio. Questa è l'impostazione di fondo, unita al fatto che noi consideriamo che la sharing economy sia un fenomeno non arrestabile. Uso l'aggettivo non a caso, visto che in Francia pochi mesi fa li hanno fisicamente arrestati alcuni operatori di sharing economy. E queste sono, diciamo, le due premesse di fondo. Nel un po' di dettaglio di questi 12 articoli, sostanzialmente uno dei punti chiave è quello dell'aspetto fiscale. Noi prevediamo che ci sia una franchigia, un'aliquota 10% fino a 10.000 euro di lavoro prestato. Questo perché tutte le ricerche dicono che è un'attività normalmente residuale per le persone, questo non l'attività principale. Questo peraltro consentirà di recuperare denaro, a nostro avviso, che noi prevediamo che sia reinvestito in formazione per chi attiva piattaforme di sharing economy e per chi vi partecipa, e sia reinvestito più in generale nello sviluppo digitale del nostro paese. Ma scusa, per capire meglio a chi è a casa, la soglia dei 10.000 euro di reddito fino alla quale si applica il 10%, poi invece no, quindi si va nella somma delle aliquote progressive, sì, marginali di, questa si applica sia al soggetto che gestisce la piattaforma sia al soggetto No, è chiaro che chi gestisce la piattaforma, sperabilmente, se è una piattaforma for profit, se ha solo 10.000 euro all'anno, a chi si applica? Avremo un problema. A chi dà la propria prestazione, a chi mette la casa per il suo Airbnb, okay, per esempio. Quindi costoro hanno questo tetto, appunto, perché tutti ci dicono che è un'attività residuale, e quindi in questo senso noi l'abbiamo trattata. E poi voi proponete che ci sia una dichiarazione di conformità che stabilisce che tipo, che cos'è la sharing company. Noi abbiamo identificato la sharing economy è un fenomeno appunto giovane ma al tempo stesso molto articolato. Abbiamo identificato in un certo modo, per cui per esempio Uber non è previsto all'interno della nostra legge perché noi non guardiamo rapporti tra professionisti, ma guardiamo questo aspetto appunto di nuova economia, di economia condivisa. E prevediamo che le piattaforme debbano darsi una policy aziendale conosciuta, trasparente a tutti, in modo tale che tutti sappiano in che contesto vanno a giocare la propria partita. Oltre a Uber, fai qualche altro esempio di piattaforma che la gente conosce in media e che non rientrerebbe nella... No, direi che la come peraltro Massimo, che saluto, ha identificato nel suo commento della sera, la principale è Uber. Tutte le altre bene o male rientrano, e devo dire nei criteri che noi abbiamo assegnato di policy delle piattaforme sono normalmente criteri che già le piattaforme applicano, per cui non è che li andiamo a Tu dici è una cosa soft ma è un guanto che calza bene, che consente lo sviluppo. Sei convinto di questo? Sono convinto che sia un buon inizio, non a caso si chiama proposta di legge e non a caso abbiamo messa in consultazione pubblica sul sito degli Stati Generali dell'Innovazione, dove rimarrà per 3 mesi, perché abbiamo meditato questo calcio d'inizio per più di un anno, come ho detto, e pensiamo che sia un buon modo per cominciare una regolamentazione davvero soft. Allora, voi trovate la proposta in consultazione fino al 31 maggio, se volete approfondire i 12 articoli e la relazione introduttiva, la trovate sulla piattaforma Making Speeches Talk di Open Evidence, quindi se cercate Open Evidence trovate il testo, io invito tutti a leggerlo. Io dico subito che a me non mi convince troppo, ma lo dico per ultimo. Voglio sapere invece da Massimo Sede del Corriere della Sera per chi non avesse già letto quello che ha scritto, ma insomma, quali sono secondo te i punti di forza e i punti di debolezza di questa iniziale proposta? Grazie Oscar. Allora, partiamo dai punti di forza e poi andiamo a quella che è stata la mia critica. Sicuramente va riconosciuto a questa proposta di legge di essere una piattaforma generalista, sottolineo generalista, non generica, generalista, che affronta il tema e intercetta quello che è un fenomeno di massa, perché tu giustamente prima dicevi che l'economia della condivisione in Italia non è esplosa, però in realtà andrebbe distinto, perché sta esplodendo molto la domanda, la richiesta di l'utilizzo di piattaforme estere, appunto il caso di Airbnb è sicuramente uno di quelli da citare, perché siamo il terzo paese per messa in condivisione di appartamenti al mondo, ci sono gli Stati Uniti molto distanti, poi c'è la Francia molto vicina e poi c'è l'Italia. Quindi sicuramente è un fenomeno di massa che sta mostrando degli elementi interessanti. Intercetta questo fenomeno di massa. Secondo me il limite di questa proposta di legge è che rischia di regolamentare la domanda e di non occuparsi dell'offerta. È vero che potremmo discutere sul fatto che l'offerta andrebbe affrontata probabilmente dal governo con una politica industriale dell'economia della condivisione. Potremmo anche dire che non c'è una politica industriale dell'economia della proprietà, figuriamoci se c'è una politica industriale anche sull'economia della condivisione. Però il rischio è che facilitiamo l'ingresso di società già forti, appunto il caso di Airbnb, non facilitiamo la nascita di aziende italiane, perché faccio un esempio concreto per passare proprio alla proposta di legge. Essere un sostituto d'imposta va molto bene a Airbnb. Se avessero detto a Airbnb il primo mese di vita devi essere anche sostituto d'imposta negli Stati Uniti, probabilmente non avremmo avuto quel fenomeno in grande esplosiva crescita che abbiamo avuto. Quindi rischia di essere anche una zavorra per le nostre piccole aziende, ma non ne faccio un contesto nazionalistico, è semplicemente non alimentiamo quella che è un elemento significativo della crescita. Sono molto d'accordo, ma faccio altri esempi e qui li butto lì, perché poi dopo l'interruzione tra 3 minuti tocca a Antonio Palmieri darci le risposte. Allora, parliamoci chiaro. Chi sente in giro tra i tanti startup o conosce sviluppatori dentro l'università o fuori dall'università, quindi in contatto diretto poi con chi sta nell'università, chi insegna a fare ricercatore, sa che la risposta al tema appena sollevato da Massimo Sederi non è la mancanza di idee di nuove piattaforme di offerta nella sharing economy, l'economia condivisa, insomma, basata su il confronto peer-to-peer, da pari a pari per incrociare domanda e offerta. Ma nasce dal fatto che in Italia si sa che non ci si può fidare che cosa avviene, come è avvenuto in questi anni, quando si esce fuori con un tentativo che non è più un'idea ma è un'impresa vera, quindi rischiando i soldi, perché si suscitano le reazioni dei vecchi intermediari nel matching tra domanda e offerta, la politica si gira dall'altra parte perché non vuole toccare i vecchi interessi, ci finisce davanti alla magistratura. Questo è quello che avviene. Questo avviene per l'intermediazione di servizi turistici. È avvenuto anche in questa legge di stabilità per tariffe. Se un albergatore passa attraverso uno o più portali rispetto a quello che pratica i clienti, lo Stato dice: tu a quel punto non puoi avere un'offerta agevolata. Perché non puoi avere un'offerta agevolata se io con la piattaforma mi abbatto i costi di intermediazione? È ovvio che la pratico. Allora, tutti questi esempi uccidono l'offerta in Italia, avendo ottime idee. Il sostituto d'imposta viola la faccenda del peer-to-peer, perché adotta la stessa regola, certezza di incasso per lo Stato, della quale io me ne fotto, a dire la verità, perché io voglio più imprese e occupazione. Io, Giannino, il legislatore, se ne deve occupare. Però è la stessa logica che noi abbiamo adattato tra stazioni subappaltanti e subappaltatori, dicendo: tu devi rispondere di fronte allo Stato di chi hai sotto. Ma di chi hai sotto è un conto. Nella sharing non ha nessun significato se non quello di garantire lo Stato. Altro vincolo, perché significa che tra sconosciuti io dovrò rispondere di eventuali sanzioni amministrative o, per i casi che sono rimasti dopo la depenalizzazione, anche di eventuali reati fiscali, e tutto questo non ha niente a che vedere, è solo un ostacolo. Siamo sicuri che abbiamo bisogno di un albo nazionale presso l'AGCOM? A che cosa serve se non a formalizzare anche questo? Perdonate, non lo capisco. Io penso che molti esempi, faccio un ultimo esempio, io penso che le blockchain, cioè catene di fiducia asseverata dal basso possono alimentare molto meglio delle vecchie tradizionali imprese di settore sviluppo a enormi settori del mercato. Faccio un esempio. La sicurezza che in Italia, nelle aree extraurbane, in alcune parti d'Italia sta diventando un'emergenza di nuovo, furti, rapine, eccetera, eccetera. Quella roba lì potrebbe, con la sharing economy, alimentare la nascita di piattaforme di sicurezza costruite appunto sulla blockchain, fiducia costruita dal basso, dai cittadini direttamente, senza scavalcare lo Stato. Qui non si tratta di ronde, non si tratta di sostituirsi alla giustizia, ma con forme territoriali di partecipazione a coefficiente di sicurezza maggiore. A oggi nessuno lo rischia, perché viene una qualunque società di vigilanza, va in procura e tu a quel punto finisci nei guai. Allora, un minuto di pausa e poi sentiamo cosa ne pensano sia Antonio Palmieri che Massimo. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta di studi di Milano di Radio 24, stiamo parlando di sharing economy, stiamo parlando di questo, speriamo bene, nuovo progetto di legge che nasce da un confronto trasversale, stiamo parlando di maggioranza e opposizione del gruppo, l'intergruppo per l'innovazione, parlamentare dell'innovazione, 12 articoli per tentare di dare una regolamentazione il meno ostativa possibile al fenomeno della sharing economy, che in Italia tossicchia perché c'è fortissime resistenze. E trovate, se volete, per approfondire in consultazione il testo, lo trovate sulla piattaforma Making Speeches Talk di Open Evidence. Allora, sono stato un po' brutale ad avanzare qualche critica. Che dice Antonio Palmieri? Ma intanto ho usato il minuto della pausa per prendermi un cordiale, per riprendermi da tutto questo mare di critiche alla norma, e prendo intanto l'offerta. Nel senso che noi vogliamo usare questo tempo, questi 3 mesi, proprio per fare quei match di pugilato, e quindi io direi che Oscar, ti sei candidato a organizzarne uno tu presso il Sole 24 Ore. Sì, però io ti porto gente molto più esperta di me, il professor Carlo Alberto Calamari, però lo facciamo. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che a cui ha accennato Massimo Sideri, è chiaro che ci muoviamo in un contesto, purtroppo il contesto italiano, nel quale lo Stato è tendenzialmente nemico di chi intraprende. E tu che parte fai, però? Tu sei lo Stato, io posso criticare, tu sei lo Stato. Perché sennò sarei un participio passato. A me avrei l'ambizione di essere ancora nel presente. Bravo. E in questo presente noi abbiamo in Italia un esempio di una normativa tendenzialmente virtuosa, o quantomeno meno ostile nei confronti di chi intraprende, che è la normativa pro startup innovative, che a sua volta è diventata, come io amo dire sempre, una normativa per le startup che ha generato altre norme a favore di chi intraprende. Allora, non a caso noi vogliamo mettere nel testo, perché condivido, comprendo la critica, questo testo norma quello che c'è già. Rispetto ai nuovi, il nostro intento è quello di arricchirlo grazie proprio al dibattito. Un esempio, io avevo personalmente scritto una norma, un comma, nel quale estendevamo i benefici delle startup innovative a questo provvedimento, dentro questo provvedimento. Mi è stato fatto notare, giustamente, che molte di queste imprese sono già startup innovative e quindi non l'abbiamo inserito perché poteva essere tautologico. Ma è questo solo per fare un esempio di un fatto che sicuramente la norma può essere migliorata sul versante delle nuove piattaforme italiane. Abbiamo fatto degli altri ipotesi che ci sono state per il momento cassate perché in conflitto con normative europee o normative di concorrenza, ma il dibattito per noi è veramente aperto, dibattito assolutamente propositivo. Quindi su questo aspetto ci siamo. Certamente il tema della tassazione, che mi fermo qui, è per noi doveroso, tu l'hai riconosciuto, anche perché questo toglie alibi a coloro i quali si oppongono alla sharing economy. È un argomento formidabile. E al tempo stesso è anche vero che se si genera un reddito, eludere completamente ogni forma di tassazione è una cosa che non va bene. No, ma eludere è un conto. Eludere, io non sono mai per eludere né per evadere. Ma pretendere, come sta avvenendo in numero crescente di città italiane, di applicare a chi attraverso Airbnb mette a disposizione temporaneamente abitazioni ha la stessa imposta di soggiorno come chi offre una struttura permanente con i mobilizzi di capitale aggiuntivi, ritorni sul capitale organizzativo di un albergo, è a mio modestissimo giudizio, insensato. Capisco i comuni che sono assettati di entrate, però insensato significa paragonare davvero mele e pere, perché a quel punto l'albergatore si difende così, il comune dice io incasso, ma scoraggiamo questo, e stiamo parlando di chi in quel caso non è una multinazionale che intermedia servizi di trasporto, ma qualcuno che integra davvero, come diceva Palmieri, non è che vive di quello. Però che dice Sideri? Ma infatti torniamo al punto di prima, non è un caso che Airbnb, e io sottolineo che io sono un grande fruitore di Airbnb, quindi è un'azienda che mi piace tantissimo, Airbnb per esempio è molto contenta di queste normative, molto contenta di poter dire prendo io la tassa di soggiorno, perché il problema è che diventa un elemento concorrenziale molto forte per Airbnb, perché il concorrente piccolo che nasce non riuscirà mai, esatto, all'inizio a fare il sostituto d'imposta, a raccogliere, come succede già a Milano, hanno fatto l'accordo, come succede a Firenze, a raccogliere questa tassa di soggiorno. Questa, come dicevi tu, è una norma che piace alle multinazionali che esistono già nell'offerta dei servizi. Sì, sì, e non voglio accusare minimamente la proposta. No, non è intenzionale. Non è intenzionale assolutamente. Ha affrontato quello che poteva affrontare. Ci tengo a sottolineare, quando parlo di nuove aziende, parlo di occupazione, perché esatto, poi quando queste aziende arrivano qui e sono il benvenute, in realtà non è che poi creino moltissima occupazione, sappiamo benissimo che prendono poche decine di persone, quindi dobbiamo occuparci di far nascere delle startup non perché debbano essere startup made in Italy, ma perché danno occupazione, e noi abbiamo un grosso problema di disoccupazione giovanile. Quindi questo è l'elemento da affrontare dal mio punto di vista. L'altro elemento è la questione politica, l'abbiamo già detto. Ci sono delle fortissime tensioni uberisti contro tassisti. A Milano lo sappiamo, io praticamente non posso più prendere taxi dopo i miei editoriali sul Corriere di Milano. Questa proposta di legge dribbla queste problematiche. Capisco il motivo per cui tenta di evitare qualunque tipo di polemica, però poi non va al nocciolo della questione. Ecco, io questo dico, cioè se uno fa un bilancio comparato, si prende da una parte i dati del totale delle società di trasporto pubblico italiano, TPL locale, RS Mediobanca, classicamente che c'ha una sottoclasse in cui vengono analizzate tutte le municipalizzate italiane, e una sottoclasse di queste sono le TPL. Si prende tutte quelle da una parte, correlativi, debiti, risultati di gestione, eccetera, eccetera, percentuali elevatissime di chi perde da 10 anni, 5 anni, eccetera, eccetera, e di chi soprattutto non ha alcuna possibilità di garantire, non ne faccio una questione solo di gestione economica, non ha alcuna possibilità di garantire la richiesta crescente sia in aree urbane ma ormai anche extraurbane in tutte le grandi città metropolitane, la richiesta crescente il trasporto punto punto, che non può essere garantita da un'azienda pubblica che ha obblighi nel trasporto universale, limitatezza di mezzi, obblighi di passaggi orari, tariffe, eccetera eccetera, che col punto punto non si esauriscono. Detto questo, allora, per il punto punto Uber è la sola soluzione? No, ma per far sorgere le soluzioni dal basso, che possono nascere in ogni grande area metropolitana italiana, io c'ho bisogno di dire che chi la fa non rischia di trovarsi picchiato e deferito alla magistratura. A oggi c'è questo in Italia, e il TPL pubblico non può dare la risposta neanche a Milano di quella roba lì. A Milano ogni giorno ci sono 850.000 persone che entrano, ci sono 300 quasi, 270, 220.000 milanesi che escono, ed è tutta una roba che passa per gomma privata praticamente, quasi tutta, perché il trasporto pubblico non può risolvere la pluralità di una questione punto punto. Allora, c'è qualche possibilità secondo te, Antonio, che anche questi tipi di discorsi, se ci confrontiamo un po', possono entrare nel vostro testo? Io penso, come ho detto, il testo è aperto ed è una proposta, non è la Bibbia, non sono le tavole e i 10 comandamenti. Ci ho detto però, purtroppo in Italia chiunque intraprende deve fare i conti con la burocrazia e con il fisco, e quindi da queste forti caudine non si passa. Non c'è dubbio. Sono ineludibili. E quindi la nostra proposta semplifica la vita a coloro i quali intraprendono, non è che la complica. Sì. Oltretutto, siccome appunto saranno al 100% quasi startup innovative, hanno già tutta una serie di misure fiscali e burocratiche che rendono, come dicevo prima, lo Stato meno nemico loro, e quindi io non la vedo così dura e negativa come l'avete messa voi, la vedo come una possibilità in più che si dà, aperta a essere sicuramente migliorata col contributo di tutti. Ma sia ben chiaro, aggiungo, non vogliamo dire meglio niente, no. No, questo è piuttosto, ma due parole, è piuttosto. Piuttosto. Aggiungo l'ultimo dato, noi poi abbiamo a che fare con la tipica situazione italiana, ma non solo italiana, con normative che poi coinvolgono i vari livelli di governo. Ah, sì, certo. E quindi il tema della tassa di soggiorno, che a noi non riguarda, è chiaro che è una tipica cosa, come tu hai detto, avete detto, dei comuni. Quello fa parte di uno sguardo più ampio, diciamo così, dell'attività regolatoria. Però aspetta, di un approccio nuovo di governo del territorio. Che abbia una visione che non misoneista, ecco, come dire, rispetto a quello che può venire all'Italia, allo sviluppo di imprese dal basso. Qui noi abbiamo cercato di partire da una fotografia della realtà. Benissimo, allora mi scuso con tutti i cofirmatari insieme a te, perché non volevo fare l'aggressore. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare a leggervela, questa che trovate appunto sulla piattaforma Making Speech Talk di Open Evidence. Trovate il testo della proposta di legge sulla sharing economy dell'intergruppo parlamentare sull'innovazione. Se nella passione prima ho detto che 850.000 escono da Milano, al contrario, 850.000 ogni giorno entrano a Milano, circa 250 fino a 300.000 a seconda dei giorni escono, però i numeri sono questi, per capirci, non è che a Napoli siano diversi e così via. Allora, di fronte a questo speriamo di aprire un dibattito vero per una sharing economy che sia meno oppressivamente negata di quanto non sia avvenuto fino a questo momento. Grazie a Massimo Sideri del Corriere, che è stato qui in studio, e grazie a Antonio Palmieri, che era collegato con noi. Appuntamento invece domani mattina dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva, sempre qui su Radio 24.